Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Scrivo queste pagine che nessuno leggerà, perché spero di avere tanta lucidità da distruggerle prima della mia morte, nella loggetta della casa che mi sono costruito nei lunghi anni della mia laboriosa esistenza. È un'alba di mezzo agosto, un'ora in cui l'estate ancora piena cede alla passione dell'autunno. Fra poche ore tutto sarà diverso, ma intanto io vivo questo annuncio di una stagione che è più propriamente la mia. La casa è grande, è bella, comoda. Ho cercato di far rivivere le linee delle antiche case sarde che mi porto da 50 anni nel cuore, ma l'architetto naturalmente non ne ha capito nulla. Non importa. La casa non sarebbe stata ugualmente mia, perché nostra non è la casa che ci facciamo, ma la casa che ci viene tramandata dai nostri padri, quella che riceviamo apparentemente gratis, in realtà attraverso il lavoro, onesto o disonesto che sia, delle generazioni. Davanti alla loggia si stende un breve giardino che ho riempito di oleandri. Sono ancora in fiore e nell'aria umida sembrano ascoltare il canto degli uccelli che Dio ha fatto così mattinieri. Qualcuno guizza tra i rami. Le foglie hanno un leggero fremito, subito ricomposto. Ho sempre pensato che tra le piante, gli animali, il vento, ci sia un segreto rapporto. Un uccellino non si posa invano tra le fronde. Il vento non agita invano le grandi chiome degli alberi che solo noi costruiamo come immobili, classificandoli con orribile e ingiusta parola vegetali. Il loro moto non è certo il nostro, ma è come quello del mare, che non ha senso chiamare immobile, come non ha senso, mi dispiace per Omero, chiamarlo infecondo. E poi il moto degli alberi è verso l'alto, in questa lieta conquista del cielo, che a noi animali, o come si dice nelle leggi sull'abigeato, semoventi, è negata. Basta. Anche nella corte della casa di Don Sebastiano c'era un oleandro. Più che una corte, era una serie di corti, ricavate da successivi acquisti di casette e demolizioni, che alla fine uno stretto passaggio da un lato conduceva alla stalla, dall'altro si allargava in uno spiazzo detto orticello, che sarebbe stato un giardino se Don Sebastiano avesse amato i fiori. Ma quest'uomo, che aveva creato tanti poderi, giù, in Isporosile, dalla terra robusta e percorsa da un torrente sempre di malumore, o sulla collina di Locoi, dalla terra sottile e asciutta, ai piedi del nuraghe che era diventato nei secoli come il vaso immenso di una quercia, e li aveva creati quasi con le sue mani, perché sapeva potare e innestare le viti e gli ulivi, non capiva i fiori. Certo, quando inforcava il cavallo prima dell'alba, in modo da non far aspettare i clienti, lasciando la casa addormentata, e andava verso i suoi campi e vedeva i prati felici nella rugiada, o costeggiava le siepi innevate di biancospino, o contemplava le bacche lucenti del lentischio, o gli asfodeli eleganti tra il cisto rude e il melanconico fiore di San Giovanni, sentiva come un leggero struggimento, un ricordo vago, una nostalgia. Sensibile era anche agli odori e qualche volta gli accadeva di staccare un virgulto di serpillo e metterselo nella tasca della giacca di fustagno. Ma gli odori sono più vicini al frutto dei colori, hanno in sé qualcosa di concreto, di appropriabile che i colori non hanno. Pure, una volta, scendendo verso le aspre solitudini di Marreri, restò come soggiogato dalla visione dei fiumi di oleandri che solcano i fianchi di tutta la valle e affluiscono verso il letto del rio principale, che è anch'esso un altro più vasto fiume di oleandri, per scendere insieme, morbidi e voluttuosi, verso il mare. L'aurora era in cielo, ma era anche in quei fiori vermigli che uscivano dalla notte. Era sceso dal cavallo, aveva strappato un ramo e l'aveva piantato in fondo alla corte, al lato del pozzo, e il ramo aveva messo radici. Era prodigiosamente cresciuto, forse perché toccava le vene dell'acqua, e in breve aveva steso come un baldacchino sul pozzo. Era una meraviglia, con tutto quel rosso sulle cose morte che si accumulavano in quell'estremo angolo, sulla poca verdura che si coltivava nell'orticello, perché la verdura in città non viene mai bene, e i figli amavano arrampicarsi sulle sue pallide braccia, grosse come tronchi. Il guaio è che l'oleandro è una pianta velenosa, così almeno si credeva a Nuoro e così credeva donna Vincenza, che con l'andare degli anni cominciò a odiare quell'unica pianta che il marito avesse messo nella sua corte per fare dispetto a lei, certamente. Ogni giorno, quando il marito era impegnato a districare gli affanni e le beghe di quei clienti vocianti, donna Vincenza prendeva una pentola di lisciva e la buttava sulla pianta, con l'assurda volontà che bruciasse le radici, che potesse farla morire. Era una cosa senza senso, era un simbolo. Ma che cosa poteva fare questa donna di 50 anni che non fosse un simbolo? Fra non molto, l'artrite avrebbe fermato del tutto le sue gambe. Non avrebbe più potuto raggiungere nemmeno l'orticello e l'avrebbe confinata su una sedia nella prima corte, con le mani intrecciate sul petto, come in una preghiera. Ma non pregava. Donna Vincenza non era completamente sarda. Era nata, come Don Sebastiano, nel regno di Sardegna, ma quel regno era sardo per beffa e a Torino di sardi non c'era neanche la più piccola traccia. Invece, dal Piemonte veniva in Sardegna qualcuno a trafficare o a comandare e venne anche, proprio dal confine con la Francia, due passi in là e il destino sarebbe stato completamente diverso, un certo Monsuvulier, di cui non si sa assolutamente nulla. Si dice, come in una eco, che fosse un architetto, ma chissà che cosa voleva dire architetto allora, lo si sa poco anche adesso. È rimasta nei vecchi l'immagine di un uomo alto, generica evidentemente per un continentale, che metteva soggezione, e anche questo è generico, e per il ricordo di un colpo che l'aveva fulminato in giovane età. Tutto qui, di una vita che dovette essere intensa, perché in pochi anni aveva acquistato due case e un orto che era quasi un giardino appena fuori di Nuoro e fino a ieri si chiamava di Monsuvulier. Oggi ci hanno costruito sopra un palazzo del governo. E in questi anni conobbe una fanciulla in costume, ma di civile condizione, che sarebbe stata la signora Nicolosa, la madre di donna Vincenza, la quale recava nei capelli dorati la traccia del padre, che poi trasmise al primo figliolo, ma niente di più, almeno nel fisico, che anzi capiva ma non parlava l'italiano, come molta gente ancora oggi dei piccoli paesi. Il giovane don Sebastiano, di 10 anni più grande di lei, si invaghì di questa fanciulla che era come un fiore nel giovanile costume. Come la signora Nicolosa, rimasta sola con tanti figli e con poca fortuna, poteva dire di no a un diplomato notaio pieno di avvenire e nobile per giunta. Così la figlia di Monsuvulier lasciò il costume e diventò donna Vincenza, lieta di sposarsi quanto si poteva essere nei limiti del pudore. Don Sebastiano era un uomo giusto e si sposò col regime della comunione familiare. Così ogni acquisto che avrebbe fatto sarebbe stato di proprietà di entrambi. È difficile dire quanta parte avesse avuto l'amore in questo matrimonio. Già non si sa che cosa sia l'amore, quello che conduce al matrimonio, o non si sa addirittura se l'amore c'entri col matrimonio. Io sono portato a credere che i matrimoni combinati dai padri tra figli che si vedevano per la prima volta all'altare erano perfettamente nella logica, anche se naturalmente oggi non si potrebbero accettare, come non si accettano tante altre cose. Non è che l'amore sia una cosa frivola. L'amore è il matrimonio e su questo si fonda la sua indissolubilità. Comunque sia, Don Sebastiano chiamava la moglie Vincenza, ma Donna Vincenza chiamava il marito per cognome. «Dillo a Sanna». «Lo dirò a Sanna», rispondeva a chi si rivolgeva a lei per qualcosa che riguardasse la famiglia. Così fu fondata questa famiglia, quasi sulla carta, perché proprietà non ce n'era o era ridicola, da una parte e dall'altra. E la famiglia senza proprietà, che cos'è? Nel codice che Don Sebastiano teneva sul tavolo, la famiglia era distinta dalla proprietà, ma nella realtà della vita, la famiglia senza beni è un'astrazione, è un pomposo modo di dire. Come l'uomo senza beni, del resto, di cui i giuristi mestieranti dicono che è un soggetto di diritti. Ce n'è stato uno, sono ricordi di quando anch'io studiavo legge, che ha detto che ogni uomo ha un patrimonio. Bella roba. Costui non aveva visto Fileddu, lo scemo di Nuoro, che andava appresso ai signori come un cane e come un cane perdeva la testa se lo lasciavano solo, finché la madre affamata lo riportava nel suo tugurio, proteggendolo proprio come una cagna. Lo ritroveremo in questa storia. E del resto le grandi famiglie non si chiamavano case. È vero che il succo del Vangelo sta nell'aver fatto di ogni uomo un soggetto di diritti. Nell'altro mondo, però, non in questo. Don Sebastiano non aveva beni al sole, ma sapeva di averli dentro la penna che scricchiolava sulla carta bollata, e la famiglia sarebbe venuta per il tramite di quella giovinetta con la quale era andato ad abitare all'ombra di Santa Maria. Donna Vincenza era troppo giovane per quel titolo nobiliare improvviso col quale le vicine subito la chiamarono perché le spettava, ma anche perché erano fiere di lei e liete della sua sorte. E troppo giovane era per i pensieri che abbiamo espresso e che nutriva senza saperlo Don Sebastiano. La signora Nicolosa l'aveva allevata come può allevare i figli una donna che ha perduto troppo presto il marito e si sente o si sentiva come investita di un suo mandato. Ma anche senza di ciò, le ragazze allora erano fatte per il futuro e quindi non solo non dovevano avere passato, ciò che è fin troppo ovvio, ma nemmeno presente. Problemi non ce n'erano. I problemi, in qualunque campo, sorgono quando vengono meno le semplici, le umili certezze della vita, quelle che uno si porta nascendo e non c'è nemmeno bisogno del prete per riconoscerle. Donna Vincenza sapeva vagamente che era destinata a prendere marito, ma la sua fantasia non andava più in là. Lo stato d'animo di una Madonna che sa che l'angelo deve venire, che intende subito la sua parola e la coglie serena, come nel mito o realtà che sia. Molti, molti anni dopo, diceva che quando attendeva il primo figlio credeva che le avrebbero aperto il ventre per trarlo fuori, ma lo diceva con acredine, lo diceva contro Don Sebastiano per rinfacciargli lo scempio che aveva fatto della sua vita. Queste però sono le tristezze che verranno. In quel tempo Donna Vincenza era lieta perché aveva avuto il dono di un'anima semplice e tutto aveva un valore per lei. Aveva fatto le prime scuole, aveva appreso a leggere e a scrivere quanto bastava, e in realtà bastava così poco. E le persone e le cose che vedeva erano la sua realtà, tanto più che alla famiglia era rimasta di quel piemontese che era morto di recente e che lei non aveva neppure conosciuto, una impronta di modesta signorilità che attraeva le vicine e le rendeva ossequienti. Le donne uscivano poco e perciò ogni uscita era una favolosa avventura. L'avventura di Donna Vincenza era la sua gita all'orto di Vuglié, in Istiritta. Non metterebbe conto di parlarne se a quell'orto essa non tornasse ancora, seduta e ormai quasi immobile, sulla sua poltrona nella prima corte, dietro la casa. C'era un grande, immenso cancello rosso che cigolava sui cardini e si apriva a fatica per i ciuffi di malva e di cardi selvatici che invadevano la soglia. Ma la malva fa come un piccolo bozzo nel centro che si può mangiare, e i cardi hanno un verde tenero in fondo alle spine che ricorda il sapore del carciofo. Poi, in cima al breve vialetto, appariva la vetta di una palma, che era una cosa rara perché Nuoro è alta sul mare, quasi montagna. La casa del contadino odorava di pane e formaggio, cioè del suo cibo quotidiano, ed era un odore rustico, buono. Lo stesso odore della vanga, della zappa, della bisaccia appesa alla parete, anche del gatto che dormiva davanti al focolare spento. Tutte cose vive, di una vita ogni volta nuova per lei, che parlava col contadino che l'aveva vista nascere e perciò le dava del tu, mentre davanti alla signora Nicolosa si toglieva la berretta. E l'orto con la lattuga, il sedano, i pomodori, i cetrioli. L'orto è lo spartito musicale del contadino, che lo crea giorno per giorno, seguendo l'ispirazione, aprendo i lunghi solchi dove scorre l'acqua che egli governa secondo sapienza. C'è un solco lungo al margine dell'orto nel quale scorre l'acqua che viene dal pozzo e poi egli costringe a deviare lungo i piccoli solchi trasversali con una zappata di terra, una a ogni solco. È un lavoro antico, il primo esperimento di acquedotto forse che l'uomo abbia fatto, ma il contadino non sa che è antico, perché il tempo non ha passato né futuro, si è sempre fatto così. Meno antica, forse, quella ingegnosa macchina che Monsieur Vuglié aveva impiantato sul pozzo, con tanti rettangoli di latta che scendevano vuoti e risalivano pieni, grondanti perché la ruggine li aveva corrosi, e tutto al giro lento di un cavallo bendato che non aveva bisogno di pungoli o di voci. Bastava che lo attaccassero e quello cominciava a camminare. Donna Vincenza correva, volava in questo mondo di pochi passi oltre il quale non c'era nulla, o era indifferente ci fosse qualcosa. Era felice ed era giusto che fosse così. In fondo, che cosa occorre alla donna, se vogliamo essere sinceri, in un tempo come questo in cui è così difficile esserlo? Nient'altro che l'amore e la capacità di amare. Tutto il resto vi sarà dato in soprammercato, diceva quel libricino che qualche volta apriva alla messa. Il guaio è che amare è una cosa difficile ed è più facile essere grandi scienziate o grandi scrittrici, come ce ne sono state, perché l'amore non è volontà, non è studio, non è quel che si dice genio. È intelligenza, la vera sola misura della donna e anche dell'uomo. Donna Vincenza era intelligentissima, anche se sapeva appena leggere e scrivere, e perciò traboccava d'amore, senza saperlo. Amava quei poveri mobili della sua casa, i ricami sulle federe alle quali attendeva con la madre tutto il giorno. La signora Nicolosa li faceva anche per commissione, perché certo non bastavano i magri redditi dei beni lasciatile da Monsieur Vuglié. La cortita di casa, coi fichi e i pomodori messi a seccare sulle tavole tra il canto avido delle api e delle vespe. amava soprattutto l'orto, nel quale ancora si aggirava cogliendo i fiori e la frutta, anche se le sue gambe ingrossate la reggevano sempre meno. E aveva amato Don Sebastiano, quest'uomo che era venuto a chiederla in sposa e l'avrebbe condotta in un'altra casa.